lavatrice, dice, ho fatto la rima, gli umani mi sfruttano, mi fanno pulire i loro panni. La lavastoviglie, gli umani mi sfruttano, mi fanno pulire i loro piatti. Gli asciugacapelli, gli umani mi sfruttano, mi fanno asciugare i loro capelli. E la carta igienica. E io... Benvenuti a Dedicato! Buongiorno! Come buongiorno, Mascotte? È la prima puntata della seconda stagione di Dedicato, di qualcosa. Mascotte, cosa sta facendo? Mascotte, per cortesia, si concentri. Sto valutando il formaggio. Sta valutando il formaggio, Mascotte? Cominciamo malissimo questa... Che cosa sta facendo, Mascotte? Sto valutando il cibo. Il cibo, con che cosa? È mediocre! Ma smette di fare pipì, Mascotte, per cortesia. Scusi, pip pip, in radio si sente, non va bene. Mi dice, per favore, cosa sta facendo? Sto scannerizzando il cibo per vedere, cioè... la sua qualità. Sì, c'è questa app che funziona con il cibo e... Ah, funziona col cibo, non sì, col telefono. Sì, presente quando ci sono quei cosi beep. I codici a barre, codici sì, a quelli, barre. Tralasciamo i dettagli, e si inquadrano e fa beep. Ho capito. Fa facciamo beep. E fa beep. È un'app che scannerizza i codici a barre degli alimenti. Dice la pancetta che la sto sua qualità. La pancetta che sto scannerizzando adesso è scarsa. È scarsissima. Chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai. Ai politici da fiera, dedicato a chi ha paura e a chi sta dei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono. Il gioco finisce, no, si Bentornati a Dedicato. Mascotte si è ripresa dai suoi giochi con quest'app Guardian Style. Molto bene, perché valutare il cibo è una cosa importante in effetti. Però la mascotte... Potrei andare al supermercato e scansionare tutto. Scansionare tutto, peggio di una cassiera. Comunque, mascotte, bentornata. Siamo in studio Dedicato. Sì! Finalmente per questa seconda stagione su Radio Città Fucico. Ragazzi, siamo veramente felicissime. Tutto lo staff di Dedicato, anche perché quest'estate abbiamo fatto tanti laboratori e siamo girati a fare i laboratori. Sì, mascotte, io non capisco se lei è così proprio di suo, sì, oppure sono se io. È proprio così di suo, sì, capito? Cioè, non c'è interazione con degli zuccheri, non ha mangiato troppe caramelle, chewing gum, no. Vabbè, comunque, detto questo, lo staff di Dedicato, nel fattispecie io e la mascotte, siamo... È l'una e mezza, posso berlo te. Ma veramente è l'una, però se lei pensa che sia l'una e mezza va bene uguale. Facciamo finta, vabbè. Come Daniel Tiger. L'orario per noi è un'opinione, quindi è mezzanotte, facciamo che è mezzanotte. Sì, è mezzanotte. Detto questo, non ci dilunghiamo perché vogliamo iniziare a mandare i primi risultati dei nostri laboratori estivi. Sì! Sì! Daniel Style! Siamo andate in giro per l'Italia a fare dei laboratori che si chiamavano proprio Dedicato On Air, quindi insomma abbiamo lavorato con bambini e ragazzi dal Piemonte alla Sicilia, ci siamo oltre che divertite un sacco, impegnate un sacco, perché sì, abbiamo realizzato veramente del materiale fantastico, molto buffo ma anche molto interessante, e andiamo a presentarvi piano piano tutto il materiale. Vi garantisco che sono ore e ore e ore. Abbiamo intervistato anche degli oggetti, la mascotte con un gruppo di bambini in uno di questi laboratori, eravamo credo a Vigiciati, e un animale, un cane e una fontana e un sasso. Io, ragazzi, ho parlato con un sacco di cicale, rane. Quest'estate abbiamo fatto interviste a chiunque, quindi preparatevi, e ora vi mandiamo il primo contributo dalla nostra estate in giro. Non eri Giuseppe? È tua mamma che mi chiama così, però il mio vero nome è Giovanni, quindi non è colpa mia. Ok, va bene. Scusate, dov'è Giuseppe? Giuseppe! Non c'è Giuseppe. Giuseppe! Sei andato in bagno! No, e allora... Sei andato a cucinare! Io sono o non sono la mamma della mascotte? Sei andato dallo scoiattolo! Mascotte, stia zitta. Sono o non sono la mamma della mascotte? Sì! Bene. Allora, io sostengo... L'avevamo capito, giusto? Io sostengo che qui ci sia un Giuseppe, che però lui dice Giuseppe! Di... Giuseppe! Ma lui dice di non essere Giuseppe, dice di essere Giovanni. Come no, Giovanni? No, allora ragazzi, chi è? Scusi. Stella, chi è? Giovannino Perdigiorno. E Giovannino Perdigiorno, chi è che sa chi è? È uno che ha perso il tram di mezzogiorno. Ah, ok, e chi racconta queste storie? Giovannino Perdigiorno. Giuseppe, chi racconta queste storie? Ciao, Giovannino Perdigiorno. Sì, ma chi ha scritto la storia di Giovannino Perdigiorno? Quasi... Oh, ragazzi, non mi fate l'ignorare, non mi cadete su questa cosa. Giuseppe Nanzo! Si chiama Gianni Rodari ed è uno di... grande Gianni! Mascotte, la smette di fare i cori da stadio, per favore? Ecco, lei è proprio una maraglia, veramente. Si può dire? No, comunque, Giuseppe, dov'è sto Giuseppe? Abbiamo Giovannino Perdigiorno, Giovanni. Abbiamo Gianni. Abbiamo Raffaele, Riccardo, Aurora, Ryan, Stella, Adele. Sa, non ti chiamavi Stella? Ma qua mi confondo. Allora, Giuseppe si chiama Giovanni. C'è anche un'uva. Stella si chiama Sara, la mascotte urla, gli altri stanno zitti. Ma la domanda è, dov'è Giuseppe? Ma dov'è Giuseppe? Grazie, Raffaele. Francesco, è in bagno, quale? Si vede perché è un Franceschino, quello piccolino. Quello piccolino o quello più grandino? Tutti e due. No, perché abbiamo due Franceschi. Tutti e due. Va bene, allora bimbi, dalla quarta foglia salutiamo tutti. Ciao! Bentornati in studio. Ecco, questi erano i bambini della quarta foglia, che è un progetto parentale del Monferrato in Piemonte. Sono molto, molto bravi. Sono veramente bravi, hanno un asilo nel bosco, e in questo asilo nel bosco è aperto ai bambini sia del nido che della materna. fanno progetti bellissimi anche extrascolastici, quindi fuori dal loro asilo, progetti culturali interessanti che vanno anche a coinvolgere il territorio. Davvero interessante. In quanto asilo nel bosco, devo dire che i bambini si divertono tantissimo, perché oltretutto è veramente nel bosco. Si può scendere nel bosco. Sì, c'è proprio dentro il bosco. Ci sono tracce per entrare nel bosco. E poi ci sono, come diceva boschetti, la mascotte, boschetti di bambù in cui mi sono fatta delle ferite che alla me, ferite di sangue. Si è ferita nel boschetto di bambù e abbiamo dei giochi bellissimi autoprodotti con la mascotte, ci siamo divertite un sacco sulle altalene costruite dalle famiglie e al di là di questo doveva andarci in piedi sull'altalena, certo, perché aveva paura, più grande. Ma no, che paura, perché sono grande, non ci stavo. Comunque, al di là di questo, intanto salutiamo tutti i bambini della Quarta Foglia. Questi erano i bambini grandi che hanno partecipato al centro estivo. Poi avremo degli interventi anche dei bambini più piccoli, quelli proprio dell'asilo nel bosco che dei frequentano durante quasi l'anno. Quasi tutti quei grandi sono miei amici, poi anche molto quei piccoli. Quindi intanto, mascotte, ringraziamo la Quarta Foglia, salutiamo, yes! Ciao ragazzi! A tutte le maestre, a tutti i bimbi, i grandi, i piccoli, chiunque! Ok, tornati in studio con Redbone, Come and Get Your Love, e ora riprendiamo una cosa che avevamo lasciato un po' a metà nelle ultime puntate, perché avevamo un sacco di materiale ancora da Eufonica 2024 e vi anticipo che anche questo autunno finiremo di ascoltare i contributi, le interviste, tutto il materiale realizzato al laboratorio di dedicato di Eufonica, che è stato realizzato a maggio e che, essendo talmente tanto, non abbiamo avuto il tempo materiale di mandarlo prima delle vacanze estive, quindi lo manderemo durante l'autunno, come manderemo anche appunto i laboratori che abbiamo fatto quest'estate. E il materiale raccolto dai bambini e dai ragazzi di questi laboratori verrà elaborato, montato e mandato nelle nostre trasmissioni da qui all'infinito, direi, perché abbiamo un sacco di ore di registrato, veramente tante. Siamo andati appunto alla Quarta Foglia in Piemonte, nel Monferrato, siamo andati a Vidiciatico, vicino a Bologna, in montagna, al Corno alle Scale, siamo andati anche in Sicilia, siamo andati a Sorrento, siamo andati veramente in giro tantissimo e siamo poi riapprodati a Bologna, in Montagnola, abbiamo fatto anche i nostri laboratori e quindi fra il materiale che abbiamo di Eufonica e tutto quello dell'estate, secondo me avremo veramente tanti contributi quest'anno e molto interessanti, simpatici e carini, perché sono realizzati da bambini e ragazzi che hanno lavorato con noi e si sono divertiti insieme a noi. Quindi ora però, dicevo, riprendiamo un pezzetto di un qualcosa, un gioco, il gioco che avevamo lasciato prima dell'estate, che è il nostro medley. Noi mandiamo un medley con inizi di canzoni, voi dovete indovinarle. Quindi quando l'abbiamo fatto nell'ultima puntata, credo prima dell'estate, mi sono arrivati un po' di messaggi, come dire, un bel pochino, con titoli di canzoni improbabili che non erano state assolutamente inserite nei nostri medley. Ora vi mandiamo il secondo medley, ne abbiamo preparati tre, quindi uno è già stato mandato, siamo al secondo, la prossima puntata ci sarà il terzo o nelle prossime puntate. Quindi ascoltatevelo e mandate messaggi a dedicato radiofugico@gmail.com e scrivete i brani che verranno messi in questo medley. Vediamo, vediamo se riuscite a vincere la maglietta di dedicato. Dai, vediamo. e questo era il secondo medley preparato per voi con inizi di canzone da indovinare. Quindi, Mascotte, ne hai indovinata qualcuna? Io non l'ho proprio sentito. Ah, lei non l'ha proprio sentito? Perfetto, benissimo. La Mascotte è lontana anni luce, infatti la sua voce è molto là. Comunque, sì, volevo dire, chi vince scrivendo a dedicato radiofugico@gmail.com vince la maglietta di dedicato, quindi ecco, io parteciperei. Se per caso ve lo siete perso, vi siete persi l'inizio dei pezzi di questo medley, ovviamente lo potete riascoltare sul sito della radio, nei podcast, ci sono tutte le nostre puntate, quindi avete anche questo vantaggio di poterlo riascoltare. Detto questo, io ora, Mascotte, cosa dici? Andiamo addirittura d'arrivo, ormai la puntata è quasi finita. Ok. Scrivi che è scemo, è colpa del vino. No, scrivi che è scemo. No. No, ce la ricordiamo più, Mascotte. Scrivi che è scemo, stanotte non dormi. Tu chiamavi i sogni, ma sono ricordi. Oh. Oh. Oh. Oh. No, è oh. Ah, scusa, Mascotte, poi. Oh. Scrivi che è scemo, preparo le incroce, poi scappa lontano e perdi la voce. Oh, oh, oh, oh. No, è oh, oh, oh, oh. Ah, sì, scusa, e poi? Scrivi che è scemo, è colpa del vino, se basta uno sguardo. No, ho sbagliato tutto. È Baggio, qui c'è Baggio. Eh sì, no, ho sbagliato prima. Aspetta, arrivo. Scrivi che è scemo, stanotte non dormi. E tu non fai i cori. Tu chiamavi i sogni, ma sono ricordi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Era giusto il mio coro? No, ho fatto oh, oh, oh, oh. Ok, vai. Scrivi che è scemo, è colpa del vino, se basta uno sguardo e ritorni bambino. Oh, oh, oh, oh, oh. Dove sei? No, no, no, scusa. Vai. Scrivi che è scemo, nel 94 ci vuole coraggio ad essere Baggio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta oramai. Non sei più quella bambina che baciava e ristai in TV. E pesano, uccidono, ti cazzoli, ti amo. Ballano dentro la doccia al ritmo d'un vano. Il sangue, le lacrime, un grido da svego. Tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo. Ah, ok, così va bene? No, perché c'è l'altro pezzo. C'è l'altro pezzo che poi lo cantiamo un'altra volta. Ma sì! No. I'm gonna take Nelson Piquet con In the Midnight Hour. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata. Davvero la mascotte se n'è andata sdegnata perché voleva continuare a cantare, ma io le ho piazzato un brano musicale di altissimo livello e non è potuto dire niente, non ha potuto dire nulla. Quindi noi vi salutiamo, anche se lei non c'è, ma vi salutiamo insieme comunque come se ci fosse. Ciao dalla mascotte, ciao da Eki, ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao! Solo, ma sempre più giù.